Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Credo che non, da un lato c'è la voglia di fare esperienze nuove, dall'altro il fatto che in questo momento risulta veramente difficile tornare in Italia e trovare gli stessi stimoli che si trovano in giro per il mondo. Si può essere direttore d'azienda a 35 anni in altre nazioni e poi bisogna averne 70 e probabilmente conoscere qualcuno. E quindi diventa, anche se uno lo volesse, diventa poi veramente difficile nel momento in cui bisogna firmare un contratto, stare alle condizioni che un'azienda italiana ti offre. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Interessante iniziativa quella del sito web del quotidiano La Stampa, che ha raccolto le storie di 10 giovani italiani all'estero, giovani che non si riconoscono nello stereotipo dei cervelli in fuga, al contrario vogliono vedere, conoscere e sperimentarsi. Un viaggio tra Lione, Bruxelles, Riga, Minneapolis e altre città del mondo. Quella che avete appena ascoltato era la voce di Enrico, ingegnere aerodinamico emigrato ad Oxford. Oggi vi offriamo una puntata speciale, pre-pasquale, molto incentrata sulla nostra iniziativa Giovani Talenti in Europa, che rilanciamo. Non perdetevi la possibilità di aggiudicarvi un viaggio studio a Strasburgo o un biglietto per Expo 2015. Tra poco tutti i dettagli per partecipare. E la frase della settimana è copyright di Alessandro Vespignani, fisico e informatico al lavoro tra Stati Uniti e Italia. I cervelli non sono in fuga, i cervelli sono in cerca di opportunità, innovazione, idee. E i cervelli non sono solo ricercatori e scienziati, ma chiunque abbia sete di innovazione. Capire che i cervelli sono in cerca ribalta la prospettiva su questo problema. Non sono i cervelli che fuggono, è l'Italia che li respinge, non offrendo loro le giuste possibilità. In un mondo globale, un paese sano deve sia importare che esportare cervelli, semplicemente chiarissimi. E noi, memori delle recenti vicende politiche, con un ex ministro molto sensibile, diciamo pure così, al futuro lavorativo del figlio, vi segnaliamo questa ricerca Censis. Circa 4,2 milioni di cittadini sarebbero ricorsi a una raccomandazione o all'aiuto di un parente, amico e conoscente per ottenere un'autorizzazione o accelerare una pratica della pubblica amministrazione, e 800.000 avrebbero fatto un regalo a dirigenti pubblici per avere in cambio un favore. E noi vi chiediamo quanti raccomandati o raccomandanti conoscete che negano persino l'evidenza di esserlo? Oggi, come vi anticipavamo, puntata speciale di Giovani Talenti, la dedichiamo quasi interamente all'iniziativa speciale Giovani Talenti in Europa 2015. Tra poco più di un mese, il 23 maggio, torneremo a trasmettere dall'Europarlamento di Strasburgo con un panel di giovani al lavoro nell'Unione Europea. Come antipasto vi facciamo riascoltare oggi lo speciale che abbiamo registrato proprio un anno fa nel capoluogo alsaziano, rotta dunque verso Strasburgo. Sono Stefano Montanari, ho 39 anni, sono di Roma, ho lasciato l'Italia nel 2001 per andare a lavorare come direttore didattico di una scuola di italiano a Santo Domingo, dal 2005 lavoro al Consiglio d'Europa. Sono Giacomo Fassina, ho 28 anni, sono padovano e ho lasciato l'Italia nel 2004 per andare a studiare in Inghilterra. Sono Francesca Lazzaroni, ho 36 anni, sono di Milano e ho lasciato l'Italia nel 2005 per andare a lavorare al Parlamento Europeo come assistente parlamentare. Sono Marco Cecchini, ho 38 anni, sono di Bologna. Ho lasciato l'Italia nel 2001 per un dottorato di ricerca in chimica all'Università di Zurigo, nella Svizzera tedesca. Inizio con una domanda generale, considerato che mancano poche settimane a elezioni europee considerate come decisive, forse anche storiche per l'Unione. Cos'è l'Europa oggi per un giovane italiano? Uno spazio di opportunità o un'uscita di emergenza da un paese in crisi dove i giovani sono stati messi per troppi anni nel congelatore? Stefano. È una grande opportunità per i giovani italiani per formarsi e per crescere. Giacomo. Un progetto politico dove difendere conquiste e ottenerne di nuove. Francesca? È un'opportunità da non perdere, dove crescere sia professionalmente che personalmente. Marco? È sicuramente un'opportunità per vedere cose nuove e capire e conoscersi. Stefano, iniziamo da te con i tuoi studi. Nel 99 ottieni la laurea in lettere e filosofia. In quell'anno capisco che il mio futuro non sarà in Italia, ci scrivi. Perché? Qual è l'unica certezza che ti trovi ad avere nella penisola? La precarietà. Ho visto l'università e l'ho vissuta come uno specchio della realtà italiana, e tutto quello che ho visto mi ha fatto capire che in realtà senza agganci non vai molto avanti.